24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le mille lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Vedo costretto a raccontare momenti intimi e dolorosi che ho condiviso con alcuni naufraghi a casa mia. Non si dovevano permettere questo di qua, non lo volevo fare. Saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. Il 13 gennaio sono in parte morto anche io. La mia testa è stata offerta con la convinzione errata di salvaguardare interessi economici. Ho vissuto 3 anni in un innegabile tritacarne mediatico, offrendo un'immagine al pubblico della mia persona non corrispondente alla realtà. Questa cuccetta sembra un letto a 2 piazze, ci si sta meglio che in ospedale. In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Rito, dichiara Schettino Francesco colpevole dei reati a lui ascritti. Lo condanna alla pena complessiva di anni 16 di reclusione e mesi 1 di arresto. E quando suonano le sirene, ci sembra quasi che canti il gallo. 15 anni per omicidio colposo, fatti colposi non sono una pena adeguata, è una pena molto eccessiva. In mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. Tanto state tranquilli, l'aspetto più importante è questo: Schettino non va in carcere, non va in carcere, 16 anni e un mese, primo grado, ma non va in carcere. Devo dire che anche a un cuore tenero come me le lacrime di Schettino non hanno fatto breccia nel mio cuore, Cioè proprio ce la metto tutta, ce l'ho messa tutta, vedo sempre il lato umano delle persone, come dire, le persone in difficoltà ma no, neanche lacrime di Schettino sono riuscite a qualche modo. Vabbè, 16 anni e un mese di condanna, ma non andrà in carcere. Ha pianto Schettino, l'ultimo giorno, raccontando le cose intime. Ecco, l'intervista più bella è questa. Il secolo XIX, pagina 2. Il fratello di una delle vittime, il fratello di Russell Rebello, indiano: tanto lo so, siete il paese degli indulti, e anche se fosse andato in carcere, tra 5 anni sarebbe stato fuori. Capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le mille lire. Ce lo vengono a spiegare dall'India come funziona, e hanno ragione in Italia in queste cose. Comunque, questo è 24 mattino e sono le 6:34 minuti. Voglio salutare Lorenzo Nespoli, è lì in redazione, sempre a combattere, insieme al nostro Carmelo Lauricella in regia. Il nostro alpino, come al solito, l'abbiamo. Ah, è messo alla sera, l'alpino di sera. Stona un po'. Vorrei sapere subito dal signor Vincino, che saluto, buongiorno. Eccoci. Vincino, un giudizio, buongiorno, di quelli tuoi caustici su Schettino. Che Schettino, ti sei commosso un po' a vedere le lacrime di Schettino? No, commosso no, assolutamente, non è che era, come dire, incommovibile, insomma, non è la cosa. Ma devo dirti che però che sia convinto di quello che tu hai detto, così, cioè, non tanto. No, cioè, uno, cioè, che cosa non ti va bene? Siamo Non capisco il mese, 16 anni è un mese, perché è sto mese? Che ne so? Perché 16 anni sono 16 anni, già so, ma tanto un mese appena entri in carcere, se dici buongiorno alla guardia ti è già scontato un mese. Se dici apposta, dico, come dire, è un di più, ecco. No, dici buongiorno al direttore del carcere, basta che gli fai una riverenza e subito un mese ti ha abbonato. Avevano inchiostro in più, insomma, come cosa. Poi siamo solo al primo grado. Infatti, ma ho capito. Ma se ci fosse pericolo di fuga, no, perché vogliamo dire. Secondo te c'è pericolo di fuga? No, Schettino non è mai non fugge mai. Che Schettino è sempre lì al suo posto. Non... Stava il suo paesino là, tranquillo, che gli vogliono tutti bene. Il suo paesino è pure indignato su questa cosa. Il Corriere della Sera, il tuo giornale di riferimento, ha fatto notare che nemmeno la sentenza ha atteso, ha abbandonato l'aula prima della sentenza. Proprio è una nemesi storica quella di questa forse di sarà una cosa di scaramanzia, perché sai, là in quei paesi di là sotto sono tutti scaramanti, queste cose. I coronetti rossi, vabbè. E poi c'ha 5 anni che non può navigare. Ah, è vero, non può navigare per 5 anni. E questa è definitiva. Questa è una pena terribile. È una pena terribile, però. Ma neanche una barchetta a vela? Scusi, ma la Costa Crociere come va lei, la sua direzione? Ho visto che c'era una pubblicità della Costa Crociere, si allarga ora, no? Gli hanno detto che devono pagare bei soldoni, anche a tutti i naufraghi e tutti anche i sopravvissuti. Vabbè, ma Vincino, fammi aprire il Parlamento, che voglio salutare anche la Silvietta Brasca. Oggi siamo partiti tardi, peraltro. Prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Ciao. La Silvietta Brasca del TG La 7, come stai? Molto bene, ciao a tutti. Sta un po' come l'Inter, un po' sospesa. Sai che è un interista. Ragazzi, siamo abbracciati con Milan. Sai che Vincino, Silvietta Brasca è un interista, ma proprio di quelle sfegatate, cioè non si perde una partita dell'Inter da quanti anni? Ero bambina, abbonata, quelle cose. Vabbè, allora non diciamo da quanti anni, sennò poi si fanno dei calcoli maleducati sull'età delle donne. Abbonata, cioè. No, da prima del triplete, ma no, ma gli anni ci sono del 59, guarda. Vabbè, ma non dovevi dirlo, cioè, vabbè. Ma non importa, ma che cose sono. Vabbè, è del 59, Vincino. Adesso sappiamo che Silvia Brasca è del 59. Le ho viste, sono abbastanza anziana per dire che le cose le ho viste. E hai seguito anche tante case di giudiziaria, non quello di Schettino, forse. Ma tu hai capito 16 anni, un mese, c'è Vincino che non ha capito questo mese in più, gli avanzava di chiostro. Ma sono quei calcoli, a un certo momento davvero nel Camera di Consiglio i calcoli vengono fatti proprio sui foglietti. E poi sono quei mesi lì, attenzione, non sono noccioline, perché poi sono quelli che contano, e il caso Corona è proprio quello che ci fa capire. Hai capito, Vincino? Perché poi dopo passi la soglia anche per un mese di una pena che non puoi che non puoi scontare, puoi dire anche tutti buongiorno che vuoi al direttore del carcere, e poi dopo... ma a un certo momento si fanno davvero col bilancino. Ma vediamo un po', puntano. Perché qua c'è una persona che di carcere un po' se ne intende, allora, sappiamo, l'abbiamo detto varie volte, Vincino, che sei stato in carcere due volte, non una. No, in uno civile e in uno militare. Sì, uno militare, perché avevi mandato a fare in culo qualche superiore. No, avevo partecipato a un comizio, ho fatto un comizio. Ah, un comizio da militare. Cioè, capito, sì. Un comizio in divisa. Ma ti rendi, cosa volevi fare, un colpo di Stato? Dov'è che eri? No, mancava quello che... Cioè, prima, ai tempi antichi, ogni comizio c'era l'operaio, lo studente e il militare. E il militare che doveva fare mancava, no? C'ero io in divisa là, dicevo... Ma dove eri? Dove eri a fare? A Milano ero. A Milano! Esco da quel teatro dal Verme dove avevo fatto sto comizio e paf, ma acchiappano. Ma perché? Cioè, perché da militare non potevi fare un comizio? Questo è... Che reato era? Che era reato un reato era? Gravissimo, era, a quell'epoca non si poteva. Noi ci dimentichiamo che usciamo da un'epoca barbara che grazie alla nostra fatica è diventata... civile, prima sì. non c'era il divorzio, non si poteva fare il comizio militare, insomma tante cose qua terribili. Vabbè, dimmi. Io me li ricordo nel, appunto, sono vecchio, mi ricordo, c'erano, si chiamavano PID, i militari in divisa, io me li ricordo. Capito? Militari in divisa, no, capito? No, come devono stare? Proletari in divisa, come devono stare? Cioè, tu eri un proletario in divisa. Non era il mio caso, perché tanto proletario non sono mai stato, però però ti sentivi un PID. E poi sei stato in carcere un'altra volta, perché vabbè, insomma, sempre la stessa storia, sempre lo no, in Sicilia cos'è successo? Sì, in Sicilia, ecco. Sempre un comizio, t'hanno preso dentro. No, vendevo il giornale in piazza. Proprio lì, non ho fatto niente quel giorno. Che giornale, vabbè, però, scusa, che giornale? Si chiamava Il Processo Valpreda, ecco. No, ma che giornale era? Era un giornale di lotta continua che si chiamava Lotta Continua. Ho capito, di lotta continua, il giornale, vendevo un giornale, capito? Un giornale di lotta continua. Poi chi se lo ricorda più che il Processo Valpreda, un giornale che si chiamava, che uscì per, non so, per 20 numeri, 10 vabbè. Numeri. Vabbè, comunque, ragazzi, qui la politica, beh, di Schettino, ma che dobbiamo dire tanto di Schettino? Questo abbiamo detto. La politica. No, però aspetta, lei parlava, Silvia parlava del fotografo, no? Che è in galera, che il poveretto, quello 9 anni, corona, che non ha ammazzato nessuno. Ma aspetta, scusa, 16 anni quello, vabbè, ci sono 30 morti, anche se... Ma ogni processo, tu mi insegni, non è che è uguale all'altro, cioè la giustizia è uguale per tutti, vale se con lo stesso giudice, nelle stesse condizioni, nello stesso processo, non è che... Ho capito, ma Corona ha accumulato tutto, ha fatto una vita nella quale se n'è fottuto di tutti, accumulato... È disgraziato, moralmente un delinquenza abituale, però, come dire, 9 anni sono esagerati, hanno fatto quei calcolini, non mi fa simpatia, non è che di per sé, però se tu lo guardi dici vabbè, perché sa, quelli che ieri hanno detto alla Boldrini serva, quanto gli dobbiamo dare? Cos'è che hanno detto? Sentiamolo un po', serva, Vincino chiama l'audio e noi lo mettiamo. Ma com'è? Erano del Movimento 5 Stelle, è il tuo momento. Volgarità incredibile, insomma, la presidenza, cioè, abbiamo la presidenza, prima tutto è bella, là così, altera, ti ricordo che tu hai attaccato sempre la Boldrini, eh? Sì, no, questo sì, però dipende da che parte si mette, no? La cosa, non ho capito. Se è per dar conto al Movimento 5 Stelle, va bene. Va pure bene, non lo so. Comunque, adesso aspetta, dimmela bene la frase, gli hanno dato della serva, quindi cosa faresti? Sarebbero da mettere in galera? Possiamo mettere... esattamente, cioè, più o meno gli stessi anni di Corona a cada uno, Va bene, tra poco lo twitto. Silvietta Brasca, la politica è di una noia mortale. Però hai visto, cioè, la notizia più importante è Berlusconi che fa il caccio fitto, lo sospendo, lo mando via. È davvero non si capisce. Io non capisco più cosa sta succedendo lì. Secondo me lui è un tramonto, è un lunghissimo tramonto. Un lunghissimo tramonto, rimarranno delle cifre tramontabili, diciamo. Non lo so, guarda, è un uomo, è un'altra tragedia. Prima da Schettino, secondo me, è proprio un uomo, una tragedia. E Berlusconi, tu lo sai come la penso, è lì che sta cercando di una tragedia politica. Una tragedia, sì, una tragedia politica. Ah, una tragedia politica. Pongo una domanda. Scusi, la domanda è questa: allora, scelta civica senza Monti. Cosa va a fare? Dal 10% va allo 0,2%. Ma perché con Monti quanto aveva preso, scusa? Con Monti aveva preso il 10%. Ma che il 10%? Ma no, dai. Sì, in prima battuta sì. All'inizio. In prima battuta. E la seconda? E alle ultime elezioni? Scusa, alle ultime elezioni quanto ha preso? Ma Monti non c'era più, già. Monti da un anno non faceva più niente, non c'era più, era proprio schifiato di quell'ammasso di cretini che aveva messo insieme, no? Questo lo possiamo dire, no? Cioè, non lo so. Uno più imbecille dell'altro. Ale, Ale. Salutiamo gli amici di Scelta Civica. No, ma scusa, il PD si deve imbarcare questa manza di deficienti che non è capace buona a fare niente. Ma dico io, scusi, mi dispiace per il PD, ma io al posto di Renzi chiuderei le porte, le sbarrerei proprio. Pa, ma non entra nessuno, rimanete nel gruppo misto, andate con i grillini, quelli là, come si chiama, gli ex grillini. Vabbè, non lo so. Vincino, non mi toccare il senatore Ichino. Non mi toccare il senatore Ichino. No, Ichino era del PD di nascita, lui è di origine del PD, per cui è meraviglioso. Ichino lo voglio bene pure io. Era del PC, per cui Ichino, cioè, Ichino era già tesserato, non è che, ma gli altri no, gli altri, la Giannini, era di Forza Italia, di che cos'era? Ma no, era, non lo so, sì, ma attenzione, però questo, sì. Giannini Forza Italia non mi risulta. No, Forza Italia di destra, però. Va bene, era di destra, ma la notizia politica del giorno è questa, ve la darò dopo il traffico. E sapete chi c'è nella lista Falciani? Che è comparsa nella lista Falciani? Non lo sapete. Secondo me non lo sapete. No. Chi? C'è un nome nuovo. Alino Mira. No. No. Neanche Vincino, neanche Silvia Vlaschi. Dopo il traffico ve lo dico, uno della politica italiana, uno del PD. Ah! Dopo. 24 mattino. Ciao Alessandro, agli italiani che si sono indignati per Siani a Sanremo vorrei chiedere, è peggio la sua battuta o l'obesità infantile che in Italia ha superato il 10%? Buongiorno Milan, ha saputo che Roma non avrà sicuramente le Olimpiadi del 2024? Essendo stato nominato presidente del comitato Luca di Montezemolo e viste le note incapacità di questa persona, la deduzione appare ovvia. Tutti dicono che la Grecia va aiutata, benissimo. Se non sbaglio, l'Italia è esposta nei confronti della Grecia per 40 miliardi. Gli italiani, compresi i neonati, sono 60 milioni. Sbaglio o ogni italiano è esposto nei confronti della Grecia per 666 euro a testa? Visto che i greci se ne inventano una ogni giorno per non pagare il debito con questo Tsipras e questo Varoufakis, e hanno addirittura inventato il rimborso danni di guerra che dovrebbe pagargli la Germania, mi meraviglio come mai non hanno chiesto anche i danni di guerra all'Italia. Mi pare che anche noi avevamo a suo tempo fatto la guerra alla Grecia, no? Milan insuperabile, 150 grammi di bontà in olio d'oliva. Vabbè, pesa un po' di più. Comunque, il numero della segreteria telefonica 0246524492 è a vostra disposizione, per dire ciò che volete. Siamo con Silvia Brasca, siamo con Vincino e siamo con lo svela... Ah, Vincino, ho twittato le tue robe sul Movimento 5 Stelle, gli andrebbe dato loro la galera. A quelli che hanno dato serve la Boldrini sarebbero da mettere in galera, ognuno di loro una pena come quella di Corona, va bene? E poi su Scelta Civica, la tua lettura, massa di deficienti, uno più cretino dell'altro. Sì. Fossi Renzi, mi caccerei. Confermo. Vabbè, confermo. Ma la chi era quello della lista Fasciani? Chi è? Civati! Non ci credo. No, no. Civati! No, Civati. No. Ma sì, Civati, ma attenzione, c'è un conto del padre di 6.800 dollari, c'è una roba da sfigati, una roba proprio, è una roba, sì, non so, proprio Civati, lo so che è l'ultimo nome, infatti si è svegliato stamattina e ha detto, forse esco dal PD, questo è stato il suo commento, Civati. Eccolo qua, dov'è? Su Repubblica. L'anticipazione dell'Espresso, vabbè, ma vai a trovarla. 6.800, vorrei darvi i dollari. Vabbè, siete basiti, Vincino, di qualcosa. Che male hanno fatto poi in realtà? Ma no, niente. Scusa, ma non è che essere allora su questa lista. Ma no, apposta, dico no. Fai conto che ne so, che a un certo punto mi danno, non so, per le mie comparsate a Radio 24 mi danno 100 milioni all'anno. No, io che faccio? Mi ritengo tutti in Italia? Solo 5 milioni, solo 5 100 milioni. No, comunque no, ecco, bene, voi lo sappiamo, il padre, il padre ha 6.589 dollari, intestati a Roberto, Roberto Civati, il padre. Non è il più ricco di famiglia, però. Sì, è il più ricco di famiglia. Renzi è proprio un ragazzo fortunato. Sì, sì, sì. Sì, Renzi, sì, esatto, ma tu pe... No, però attenzione, c'è anche Davide Serra, le, però il finanziere, vabbè, quello lì, immaginiamo, e in poi l'isola dei Caraibi ci sarà qualcosa, eccolo lì, stai attenta te, stai attenta. E allora, ma no, ma è uno che ha un fondo a Londra, dai, non è che allora, dieci fondi per tante cose. Comunque dichiarazione di Civati, dichiarazione: non ho mai avuto accesso a quel conto di cui non sapevo proprio nulla, solo ora mio padre mi ha spiegato di averlo aperto quando era amministratore azionista della Redaelli, che aveva fabbriche all'estero. Sì, vabbè, 6.589 dollari, Vince, che ci fai con 6.000 dollari ormai? 6.000 dollari, una moto usata e basta, e torni in Svizzera, vai in Svizzera, compri una moto usata e torni in Italia col tuo patrimonio. Che apposta, no? Che manco alla frontiera passi tranquillo, c'è la mia moto e via. Sì, no? Sì, sì, e via. E il tuo patrimonio in Svizzera te lo sei ciucciato così. Il con... rider partì così, con una bella moto. Con via, una moto. Con una moto, il C, parti dopo il C, il C parte dalla Svizzera per liberare l'Europa. Mamma mia, ci va. Abbiamo una guerra in Europa, abbiamo una guerra in Europa di un lato e una guerra in Europa di sotto. Abbiamo, siamo circondati, sì, da guerre. Noi parliamo è di vero, indagini, ma no, no, guarda, che io alle 8:15 poi parlerò degli immigrati, delle tragedie, insomma, okay, di questa cosa tragica, per cui è colpa della però linea. A Sanremo un comico bravo non l'hanno riuscito a trovarlo, Io non ho visto ieri, com'è andata? Una giornata Pintus, no, ho solo visto il comico che proprio era terribile, quello, Pintus, là. quasi peggio di Siani, che peggio di lui ce ne sono pochi. È dura, ma io Pintus una volta l'ho visto in TV e faceva abbastanza ridere. Silvia, tu hai visto Sanremo? Di qualcosa? No, non l'ho visto. Però no, l'ho visto ieri sera tardissimo e c'erano quelli della rassegna che facevano i giornalisti, c'era la finta conferenza stampa e c'era uno, Federico Basso, che secondo me è molto abbastanza bravo, ma una messa luna di notte. Il livello di Sanremo, insomma, quella roba lì, come aver messo Mattarella a presentare Sanremo, sì, la stessa roba. Vabbè. Proprio siamo in quella, in quel fiume. La prima serata tutta l'ho vista, sì, tutta. E l'ho raccontata sul Foglio di oggi, tutta la prima serata. Era proprio come quando ero ragazzino, che ci mettiamo in cinque in una casa di un amico a mangiare, a fare la spaghettata e guardare Sanremo. Fantastico. Fai anche le vignette sul Duce, il Ducetto, il Duce, il Sottoduce, fine. Quelli là, che fai, mi cacci. Ma ho capito, ma quello là sta a facendo, tenta di fare politica da Cesare Boscone, no? Da un anno. Berlusconi. E tu te ne approfitti per fotti, cioè, come, da dove vai? Ma cosa stai buono? E tu ce l'hai contro Fitto? Perché Fitto, no, il problema è questo qua, ci sono politici che hanno un poco di... non so, di da là, di futuro, Fitto è solo tattica e poltrone. Va bene, ma io su questa di Fitto vi devo salutare, mannaggia, voglio salutare Vincino e Silvia Brasca, che dobbiamo fare? Silvia. Civati, pensa, la moto di Civati, il C, che passa. Disegnarla subito. Il C, ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, siamo qui alle 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Parleremo oggi della tragedia che c'è stata nel canale di Sicilia, dell'immigrazione, delle polemiche solite, andava bene la missione Mare Nostrum, no, non è vero, bisognerebbe cambiare la missione Triton, bisognerebbe coinvolgere l'Europa, bisognerebbe lasciare tutto come si sta, bisognerebbe cacciare i migranti, respingerli, ognuno ha la propria teoria. Ne parleremo col sottosegretario all'interno Manzione, con il vice direttore di Libero Massimo De Manzoni, che spesso è nostro ospite, e insomma anche le vostre telefonate se vorrete, dalle 8:15. Intanto andiamo a leggere i giornali. È giovedì 12 febbraio. I titoli, Sole 24 Ore apre sulla Grecia, Grecia Europa prove d'intesa. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre la strage in mare si ritrova un po' sugli altri quotidiani. Corriere della Sera, strage in mare, lite sui soccorsi. Repubblica, migranti, vergogna infinita. Per la Stampa, i morti sono centinaia, migranti, accuse all'Unione Europea. Libero, annegati nelle lacrime. La strage colpa del buonismo ipocrita, secondo cui i clandestini vanno accolti anziché respinti. Questa è la linea di Libero. Per il Manifesto, guerra nostra, riesplode nel Mediterraneo il conflitto nascosto dall'Europa e dall'Italia. Avvenire, un abisso di morte, Europa, ora che fai? È l'appello anche del direttore Marco Tarquinio. Lasciamo questo argomento per trovare sul Fatto Quotidiano la bomba delle banche. Tre scandali in un giorno nel mondo del credito che il Premier vorrebbe riformare. E per il Giornale, decreto Renzi, qualcuno ci ha guadagnato 10 milioni, è sempre il giallo sulle popolari. Per il Messaggero, Schettino condannato, 16 anni, questo è il titolo di prima pagina. Vedremo tra poco, intanto ovviamente, della tragedia di al largo di Lampedusa, anche se in acque internazionali probabilmente. Ovviamente sono piene tutte le prime pagine dei giornali, soprattutto tutti fanno notare anche una sorta di visione di scontro tra l'ex premier Letta, che dopo un lungo silenzio ieri ha twittato dicendo: bisognerebbe ripristinare Mare Nostrum, cioè l'iniziativa umanitaria messa in piedi quando lui era il governo, e Renzi allora è andato in fretta e furia da Sky TG24 a rilasciare un'intervista a dire che non è il fallimento di Triton, ma il problema non è la missione, non è Mare Nostrum, non è Triton, si può chiedere all'Europa di fare di più, ma il punto politico da risolvere il problema in Libia, dove la situazione è fuori controllo. Racconta, pagina 3 del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, che l'Italia è nella linea della fermezza. Mantenere la linea dura per costringere l'Europa a intervenire, impedendo che sia l'Italia da sola a doversi far carico dell'emergenza immigrazione. Ecco perché ieri alle 10:30 alla Scuola Ufficiale dei Carabinieri c'è l'inaugurazione dell'anno accademico, con Renzi, la Pinotti e il ministro dell'Interno Alfano, la conferma del naufragio di due giorni prima in Libia e dei 300 morti c'è già, ma nessuno ne parla nei discorsi ufficiali. Interessante questo risvolto che scrive a Sarzanini. Nessuno ne parla ieri nei discorsi ufficiali, nulla viene detto al termine della cerimonia. La parola d'ordine appare chiara ed è questa: la tragedia è avvenuta in acque internazionali, non è un problema dell'Italia, dunque non spetta a noi intervenire per affrontare l'emergenza. Ovviamente però la polemica monta e nel corso della giornata il cambiamento. Ci sono anche tutte le testimonianze di questi migranti che dicono: ci hanno imbarcato con le armi, cioè con la minaccia, andate sui gommoni e partite. Il racconto di uno dei testimoni li trovate su tutti i giornali. Questo a dire che la situazione in Libia è disastrosa, come in un reportage del Messaggero, del Manifesto. Il Manifesto a pagina 4, sono Giuseppe Acconcia e Igor Kerstic che raccontano il business della disperazione in Libia, dove quando c'era Gheddafi venivano sì respinti, ma venivano lasciati a morire con respingimenti sistematici nel deserto del Sahara, dunque al confine sud della Libia. Nel 2008 fu il governo Berlusconi a firmare una serie di trattati riguardanti non solo l'approvvigionamento di gas, ma anche il contenimento dell'immigrazione. E Gheddafi instaurò un controllo delle coste, solo che i trattati contenevano un errore allarmante. La Libia non aveva aderito alla Convenzione sullo status dei rifugiati del 51 e quindi, come documentato da numerose associazioni umanitarie, i migranti venivano detenuti in condizioni disumane e spesso rispediti a casa attraverso il deserto del Fezzan. I rapporti di Amnesty International hanno documentato questi piccoli grandi esodi correlati da testimonianze di stupri, uccisioni perpetrati dall'esercito libico. Quindi il tema un po' che fa notare il manifesto è che non è che prima non li vedevamo sbarcare, certo, perché venivano uccisi, incarcerati, brutalmente trattati prima, e capisco che agli occhi magari fa meno male, ma la situazione non era diversa del destino di queste persone. Comunque anche la stampa racconta che il Viminale è in difesa, cioè il Ministero dell'Interno, la missione non c'entra, non è una questione di Triton o di Mare Nostrum, si moriva anche prima. Come racconta la stampa a pagina 3, le percentuali simili di morte anche prima. Mentre Libero, avremo ospite il vice direttore, oggi con il suo direttore Maurizio Belpietro ha una posizione molto dura. Sentite l'inizio dell'editoriale di Belpietro su Libero. Le prime righe sono molto molto sferzanti. A costo di apparire brutale, scrive Belpietro, e senza cuore, voglio dire che non provo alcun senso di colpa se nel canale di Sicilia in questi giorni sono morte centinaia di persone. La mia non è indifferenza nei confronti dell'ennesima tragedia di donne, uomini, bambini annegati e uccisi dal freddo. È un semplice realismo, perché di fronte a quei morti non giro la testa dall'altra parte, non alzo le spalle. Ma una cosa deve essere chiara: uomini, donne, bambini inghiottiti dal mare non sono vittime dei mancati soccorsi di Triton, di Mare Nostrum, di Salvini, della Bossi Fini, ma del buonismo stupido e ipocrita che ci fa dire che clandestini e profughi vanno accolti sempre e comunque. Questa è la posizione molto dura di Libero. L'analizzeremo. Intanto c'è un comandante incarcerato, 16 anni e un mese, le lacrime del capitano, sto male ma non mollerò, è la notizia di cronaca con cui molti aprono. La condanna a 16 anni e un mese in primo grado a Schettino, che comunque non andrà in carcere, al momento non andrà in carcere. Tra l'altro l'intervista più significativa sul Secolo XIX a pagina 2 è l'intervista al fratello di una delle vittime della tragedia della Concordia, vale a dire il fratello di Russell Rebello, Kevin, 40 anni, cameriere indiano, il fratello del cameriere indiano morto, che dice: ma tanto la pena conta poco, conosco come va in Italia. Sappiamo che è il paese degli indulti e se anche fosse già in carcere, tra 5 anni sarebbe probabilmente libero. Così dichiara al Secolo XIX. Certo, 16 anni. Il Corriere della Sera con Marco Imarisio fa uno straordinario ritratto dell'ultimo giorno del comandante Schettino, tra le lacrime, tra il tritacarne mediatico, ammette: sono stato arrogante, e poi lascia l'aula. Evidentemente abituato, abbandona l'aula prima della sentenza dicendo: tanto mi condanneranno all'ora del telegiornale. Effettivamente la condanna è arrivata proprio in diretta televisiva sul telegiornale. Ho vissuto questi anni in un tritacarne mediatico, sento che l'immagine di me è stata offerta e non corrisponde alla realtà. E poi si è messo a piangere, lacrime che però evidentemente non hanno commosso molti. Certo, diciamo che 16 anni e un mese, qualcuno dice troppo, poco, non va bene, meritava di più, le solite polemiche che ci sono in questi casi. E va bene, ma intanto l'articolo che mi fa pensare di questa giornata è codesto, siamo sempre lì. Soldi nostri, spese loro. Pare che siano capitate anche nella regione Marche, dove ci sono 66 indagati per peculato e vari altri reati. indagato anche il governatore Spacca, contestate che cosa? Le spese dei consiglieri regionali, per la verità anche Spacca, contestate a lui un acquisto di occhiali di 700 euro con fondi pubblici, peraltro poi restituiti, fa sapere il Messaggero con Giovanni Sgardi. Ma poi ecco qui, sarà interessante capire come un consigliere giustifichi l'acquisto di un frigorifero da tavolo e di uno stendibiancheria, lo stendino con i soldi pubblici. Oppure acquisto di miele, torte, mostarda, lardo di colonnata, olio tartufato, formaggio al peperoncino, formaggio di noci, formaggio di fossa, un altro frigorifero, una cena con due bambini o la cena dell'onomastico della moglie e 40 calcolatrici. Marca Texas. Parassiti, ladri, ingrati, cornuti e delinquenti. Alessandro Mina, il Che Guevara dell'informazione. Addirittura il Che Guevara. Va bene, la politica oggi si racchiude tutta in una notizia, e cioè cosa sta succedendo all'interno del centrodestra con l'out-out di Berlusconi a Fitto. Deciditi, o dentro o fuori. E lui che celebra, ricordando il celebre precedente di Gianfranco Fini, risponde: che fai, mi cacci? E qui ci sono due o tre retroscena. Quello di Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 18, scrive: Lo Papa, io lo sospendo, lui e i suoi, per 3 mesi, poi altri 3 mesi e poi 3 mesi ancora. Se non rientrano nei ranghi, metto Fitto e i suoi 40 fuori gioco dalle liste per le regionali. Voglio vedere cosa fa Raffaele senza uomini nella sua Puglia. Questo pare sia ormai il confronto molto duro, anche il Corriere racconta di questo confronto scontro a colpi di comunicati, e il Messaggero va a intervistare chi? Beh, va a intervistare Gianfranco Fini, colui che appunto fu protagonista del Che fai mi cacci. Claudia Terracina lo intervista a pagina 10. Era facile prevedere che sarebbe finita così in Forza Italia, così inizia l'intervista Fini. Ho ragione io, avevo ragione, e quindi provo anche una certa soddisfazione, ma dall'altra moltissima amarezza. Berlusconi ha sempre avuto un'idea aziendale del partito, per questo tratta i suoi come presidente e come un presidente e un amministratore delegato farebbe con i manager della sua ditta. Il messaggio è semplice: o si fa come dice lui o si è fuori. L'amarezza è perché il centrodestra, dice Fini, si è ridotto ormai a un si Salvini chi può, e mi permetta la battuta, cioè il centrodestra oscilla tra la deriva lepenista anti-europea che esprime il segretario della Lega e la ormai scarsissima fiducia dei moderati in Berlusconi. E ancora sul patto del Nazareno, dice Gianfranco Fini, non ci ho creduto, ci credevo pochissimo, sono abituato al voltafaccia di Berlusconi. Vabbè, per il resto la politica, nel senso il chiacchiericcio della politica per un giorno si ferma qui, cioè voi capite che c'è un'intervista sul Corriere a pagina 16, di mezza pagina a Paolo Naccarato, ex collaboratore di Cossiga, che diventa un emblema dei cosiddetti stabilizzatori, cioè quelli che garantiranno la maggioranza al Senato al PD. Voi capite che per oggi si può chiudere baracca e burattini e dedicarsi alle altre tante notizie interessanti che ci sono sui giornali, a cominciare dalla questione delle banche. Beh, le banche, come leggo da pagina 28 del Sole 24 Ore, Banca Italia, commissariato Banca Etruria. Tra l'altro fanno notare molti giornali che il vicepresidente di Banca Etruria è il padre del ministro Maria Elena Boschi. Gravi perdite del patrimonio, questa la ragione, scrive Laura Galvagni sul Sole, che ha spinto la Banca Italia a proporre l'amministrazione straordinaria per Banca Etruria, proposta che il Ministero dell'Economia ha raccolto disponendo lo scioglimento del CDA, già avvenuto nel pomeriggio di ieri. CDA, tra l'altro, che era riunito in quel momento per approvare i conti del 2014, numeri che a questo punto passeranno prima sotto la lente dei commissari incaricati dal ministero. È un vero e proprio colpo di scena che altro non è se non l'esito dell'attività ispettiva condotta dalla vigilanza sui conti dell'istituto a partire dal novembre scorso, un'ispezione che ha portato alla luce ulteriori consistenti rettifiche sul portafogli crediti, tali da incidere sensibilmente sul patrimonio della banca, sceso pesantemente al di sotto dei requisiti minimi previsti. Quindi gravi perdite del patrimonio, Banca Italia che propone il commissariamento, il Ministero dell'Economia che commissaria il CDA che era in quel momento riunito. Tra l'altro le banche sono anche da giorni oggetto di polemiche, soprattutto il decreto del governo sulle banche popolari che le ha trasformate, alcune di loro, le maggior parte delle quali e le maggiori delle quali in SPA. Questo decreto è sotto la lente intanto della Consob, non tanto il decreto ma le operazioni che sono state fatte in particolare a Londra prima di questo decreto. Vegas, il presidente della Consob, dice che ci sono stati scambi anomali sulle popolari. Secondo altri giornali si parla in tutto di speculazioni per 10 milioni, questo è il titolo del giornale a pagina 11, i furbetti del decreto Renzi, la Consob dice anomalie sulle popolari, sono state fatte speculazioni qualche giorno prima, al limite del sospetto dell'insider trading, di chi cioè sapeva in qualche modo che ci sarebbe stato questo decreto e ha comprato, rastrellato azioni e si guarda molto soprattutto a Londra, ha rastrellato azioni delle banche popolari qualche giorno prima o nell'immediatezza del decreto da fare. Per il giornale c'è anche un nome che viene messo e cioè quello del finanziere Serra, Davide Serra, 44 anni, grande sponsor di Matteo Renzi, così scrive il giornale. Serra e l'acquisto di azioni che imbarazza il premier, il finanziere preferito di Renzi, suo grande sponsor, possiede il 2% del Banco Popolare. Nei giorni prima del decreto a Londra molti compravano titoli bancari. Questo Fabrizio Boschi a pagina 10 del giornale. Tra l'altro Serra ricompare sulla lista Falciani o Falciani, come volete chiamarla, chiamatela anche Falciani se volete, il concetto l'avete capito, è Hervé Falciani, è colui che era dipendente della banca filiale svizzera dell'HSBC, ha trafugato tutta una serie di nomi. Ebbene, l'Espresso, che domani pubblicherà la lista, ha anticipato alcuni dei nomi oltre a quelli che già si sapevano, cioè Briatore, Valentino Rossi e Valentino lo stilista. Spuntano nuovi nomi, tra questi c'è anche Davide Serra, titolare di un conto alla HSBC, ma ci sono altri due nomi, uno della politica del passato perché purtroppo per lui è morto e si tratta di Giorgio Stracquadagno, che è morto nel gennaio 2014, ma da documenti bancari risulta che nel 2007 il suo conto a Ginevra dell'HSBC aveva 10 milioni 700 mila dollari. Tra l'altro l'Espresso ha contattato i familiari, ma la sorella Tiziana dice non ho alcun commento da fare, è cointestataria del deposito insieme al padre Raffaele. E poi c'è un altro nome che spunta, ecco questo è proprio il nome che non ti aspetti, non te lo aspetteresti mai, Civati. Ebbene sì, Civati, questo almeno racconta Repubblica, Paolo Biondani e Leo Sisti a pagina 21, ma è l'anticipazione dell'Espresso. Il parlamentare del PD Civati viene collegato a un deposito con appena 6.589 dollari, di cui è titolare suo padre Roberto, classe 43, in passato amministratore di aziende importanti come la Redaelli Tecna di Milano. Dice Civati all'Espresso: non ho mai avuto accesso a quel conto, di cui non sapevo proprio niente. Solo ora mio padre mi ha spiegato di averlo aperto quando era amministratore azionista della Redaelli, che aveva fabbriche anche all'estero. C'erano soldi regolarmente dichiarati nei bilanci. E dunque anche Pippo Civati, davvero è il nome che non mi sarei mai aspettato. Non c'è nulla di male, lo abbiamo detto mille volte, non è che essere in questa lista voglia dire qualcosa di particolare, però certamente ovviamente è fonte di polemiche. Lo dico preventivamente, casomai uno trovasse magari Meazza Mauro, Meazza non so, degli acronimi, delle cose, non so, il conto Forza Inter Ale, cioè magari, ecco, io lo dico. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Cose che potrebbero succedere, eh? Posso rivolgere una preghiera al tecnico, se mi tiene quella parte in cui dici Forza Inter e poi la campioniamo. Così, lo ripeto meglio se vuoi, Forza Inter. Molto bene, la campioniamo e la mettiamo dei messaggi degli ascoltatori che mi sembrano un po' tutti i tuoi parenti, a dire la verità. Però vabbè, no, adesso non voglio entrare in questi dettagli, in queste basse polemiche, perché ti devo parlare invece di un'iniziativa importante che è il Giornale della Famiglia, che comincia oggi. Esatto. Spieghiamo l'economia a tutti, quasi a tutti, proviamo anche con te Alessandro. Ma infatti guarda, io sono molto contento, perché se non ce la faccio in questo modo proprio vuol dire noi stiamo facendo di tutto Alessandro, però abbi pazienza, ti devi aiutare un pochino anche tu. Sì. Adesso ti abbiamo messo questa prima uscita, ci sono 4 pagine, parliamo di inflazione e di deflazione, termini di cui sentiamo parlare tutti i giorni ma che non sono così scontati, la cui conoscenza non è così scontata. Allora spieghiamo che cosa significano, quali sono gli effetti sulla vita di tutti i giorni. Sto già prendendo, perché insomma li tengo via. Portati avanti. Te l'ho detto, se non riesco così, credo che non ci saranno più. Non lo so, proveremo in altro modo. Ti parliamo anche di casa oggi, di fotovoltaico. C'è un interessante lavoro sulle pagine di Casa 24 che ti spiegano come l'installazione di pannelli possa essere associata anche a degli accumulatori, a delle batterie. Questo consente di massimizzare sia il risparmio sia anche ovviamente la produzione. Parliamo molto di banche, ma so che già ti sei esteso. Ti voglio segnalare che parliamo anche di TUB. Il TUB, che è il testo unico bancario del decreto legislativo varato l'altro ieri dal Consiglio dei Ministri, lo modifica e te lo raccontiamo, stai attento, non nelle pagine di finanza ma invece in quelle di norme e tributi. E poi sei contento che non c'è più la Robin Tax? Ma guarda, so che la consulta... la tassa sull'energia, adesso proprio tutto, vabbè. No, è che ti sento poco attento, forse questo fatto... Vabbè, ma perché l'effetto interrogazione crea un pochino di tensione, Guarda, vabbè, allora io voglio, avrei molte altre cose da dirti, ma dei tempi della riforma del fisco, che come sai guadagnerà altri 3-6 mesi, ma ti spieghiamo tutto sul Sole 24 Ore di oggi, ti voglio dare solo quest'ultima notizia. Guarda che in caso di divorzio non è che sei obbligato a mantenere all'ex lo stesso tenore di vita. Aspetta che prenda appunti questa. No, non prendere appunti, vai sul Sole 24 Ore, prendi il Sole 24 Ore, guarda. Allora, in caso di divorzio non sei obbligato, perché la consulta, non sei obbligato, okay. La consulta ha dato una interpretazione di questa norma sul tenore di vita, un'interpretazione molto importante. Ottimo. che spieghiamo nelle pagine di di nome e tributi, ovviamente ho preso tutti gli appunti e li gira tua moglie. Bravo. Va bene, gira tua moglie, nel senso che è mia moglie che mi mantiene, quindi è questo che stai cercando di dire. No, parte, nel senso che almeno sa che cosa potrebbe aspettarla. Ah, in quel senso lì, no, perché sai, non è che a fare così questi battibecchi con te io ricevo delle somme sontuose, ma questo vabbè, un altro paio di maniche. This is George Clooney and I also like listening to 24 Mattino. Eccolo qui, è tornato George. Non ho più avuto notizie di George, come stai con Amal? Vi davano un po' in rotta dopo un... magari dovresti comprare il Sole 24 Ore per sapere questa cosa degli alimenti, caro George. Vabbè, sono cose che succedono, però non ho più avuto notizie, facile sapere, gentilmente, come va con Amal, tua moglie. Intanto che succede? Beh, si parla sempre di Grecia, parentesi curiosa, sapete che da quando ormai su Varoufakis, ministro delle finanze, si sta scatenando una letteratura, da quando è stato definito un'icona del sesso in un sondaggio, in sondaggio tedesco, ormai sono partite le somiglianze, e l'ultima scrive: Libero assomiglia, gira questa cosa su internet, anche Varoufakis a Marlon Brando. Quindi mettiamo insieme, abbiamo detto, Bruce Willis, Checco Zalone, Aldo Baglio, quello di Aldo Giovanni e Giacomo, il porno divo 30 lance e ora Marlon Brando. Ecco, mettete, fate un'unione di tutto questo e avete il ministro delle finanze Varoufakis. L'articolo più interessante sulla Grecia lo trovate, oltre alle pagine sul Sole 24 Ore, secondo me l'analisi di Federico Fubini a pagina 15 di Repubblica. Perché? Perché attenzione, che Fubini racconta come ad Atene stiano proprio finendo i soldi. Così si stanno svuotando le casse di Atene. A fine mese forzieri in rosso per 3 miliardi. La linea di frontiera si sta avvicinando ogni giorno di più, e più di quanto si pensasse prima delle elezioni, più di quanto si prevedesse anche dopo che Tsipras ha vinto il suo mandato. La linea di frontiera è quando tutto si ferma, il punto al quale il governo di Atene si trova privo di liquidità per assicurare stipendi pubblici, pensioni, oltre ai più elementari pagamenti che permettono a uno Stato di funzionare. Quello è il confine che separa l'ordine sociale dal caos, distante ormai solo qualche settimana se un accordo tra Tsipras e l'Europa non arriva presto. Dopo che Syriza ha ottenuto il 36% dei voti, nessuno pensava che quella linea d'ombra sarebbe stata così vicina. A Bruxelles, come ad Atene, era diffusa l'idea che il nuovo governo avesse in qualche modo la possibilità di arrivare fino a inizio estate. Non è più così. E dunque Repubblica racconta: mancano poche settimane e poi, secondo alcuni, ad Atene, ovviamente lo sanno bene solo Varoufakis e Tsipras che hanno in mano i conti, ma secondo alcuni tra qualche settimana non ci sarebbero più soldi per pagare i dipendenti pubblici, e sono tantissimi percentualmente in Grecia, o niente, cioè non ci sarebbero più soldi per pagare le pensioni. Ecco allora che quella potrebbe essere la linea di demarcazione tra la tenuta sociale e il caos vero, racconta Federico Fubini su Repubblica, e ve lo segnalo. Così come trovate ovviamente anche tanti articoli sulla situazione in Ucraina, dove a mediare sono rimasti nella notte, senza staff, quindi personalmente, guardandosi negli occhi, Poroshenko e Putin, dunque Ucraina e Russia, e Angela Merkel e François Hollande. L'Europa che conta veramente, tutto il resto sono chiacchiere finto patriottiche. Hollande, Merkel, Poroshenko e Putin a trattare nella notte a quattro occhi senza gli staff. Vediamo la cronaca. La cronaca ha tante notizie interessanti. La prima la trovate su Repubblica, è una esclusiva di Paolo Berizzi e riguarda il caso Yara Gambirasio e riguarda l'analisi del PC del finora unico sospettato in carcere, vale a dire Bossetti. Ebbene, ossessionato sul web dalle tredicenni rosse nel PC di Bossetti, il movente del delitto, secondo la procura, è stata fatta un'analisi di tutti i file che lui ha tentato di cancellare con dei sistemi che sono spiegati ma che sono stati in realtà recuperati dal PC di Bossetti. Repubblica in grado di dare conto della consulenza fatta. L'ultima ricerca su Google, rivelatrice della personalità, Bossetti la fa alle 9.55 del 29 maggio del 2014, è a casa da solo, accende il PC e si mette a cercare ragazzine. Ne fa menzione il GIP nell'ordinanza con cui l'altro giorno ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa, e cercava ragazzine rosse, illibate, tredicenni, con particolari caratteristiche anatomiche precise. Ecco, insomma, io dico, fa anche un certo effetto comunque poi leggere i siti porno, cioè, insomma, è indagato fino a questo momento, è accusato ovviamente della morte di Yara, dell'omicidio di Yara Gambirasio. Certo, la sua vita è già vivisezionata sui giornali. E chi invece può avere problemi ancora con la giustizia, sta scontando una pena ma è fuori dal carcere, Anna Maria Franzoni, che, attenzione, oggi torna sulle prime pagine dei giornali perché rischia di tornare in carcere. Ricordate che la Franzoni era uscita, Torna invece lo spettro del carcere. La Cassazione ha deciso, bisogna rivedere la assegnazione dei domiciliari. Deve scontare una pena di 16 anni. Lei dice: ho paura, non voglio lasciare nuovamente i miei figli. Sta di fatto che Franzoni torna allo spettro del carcere. Questa è pagina 8 del Quotidiano Nazionale, ma trovate la notizia su tutti i giornali. Il Giorno però ha dedicato più spazio di altri. Mentre il Fatto Quotidiano con Valeria Pacelli e Andrea Tundo racconta questa vicenda molto italiana. Quanto italiana questa vicenda! Eccolo qua, Tavecchio, riguarda Tavecchio, il presidente della Federazione Gioco Calcio. Ecco un altro libro, stavolta paga la Lega Dilettanti. Cosa succede? Succede che Carlo Tavecchio ha scritto un libro per bambini, Ti racconto il calcio, e la FIGC, di cui lui è presidente, acquista per 107.000 euro 20.000 copie del libro. E non solo, anche la Lega Nazionale Dilettanti, di cui è stato presidente Tavecchio, compra altre 20.000 copie. Non solo, la Lega Nazionale Dilettanti ha acquistato nel 2014 anche un altro libro di Tavecchio, La grande favola azzurra, il pallone racconta. Lì allora la Lega Nazionale comprò appunto alcune copie, migliaia di copie di questo libro. Tavecchio dice: io non ho guadagnato un euro dall'acquisto di questo libro. Ma perché è italiana questa vicenda? Perché sono soldi pubblici. La FIGC non poteva usare 107.000 euro per fare qualcosa di un po' più utile, magari per promuovere lo sport, non lo so, 20.000 copie del libro. Vabbè che i libri non vendono, ma aiutarli così. Vabbè, siamo al momento conclusivo. La carta costa e rimaniamo sul Fatto Quotidiano, dove si scrivono due pagine, due intere, intense su Sanremo, con intervista di Malcolm Pagani a Paolo Virzì, che racconta che ha visto tutte le puntate della storia di Sanremo. Due pagine, ma poi mica negli spettacoli, pagina 8 e 9, due pagine su Sanremo. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, abbiamo appreso che potrebbero essere 330 le vittime dell'ennesima strage e tragedia nel canale di Sicilia. E attenzione che non è finita. Chi è in contatto con persone che sono nelle coste libiche pronte a partire dice: guardate che già altre almeno 600 persone sono pronte a partire. Poi si sa che tra due mesi arriva la bella stagione e quindi gli sbarchi ovviamente riprenderanno. Allora, il problema cos'è? È Tritone, come lo volete chiamare, la missione europea. Il problema è avere cancellato Mare Nostrum, che era la missione umanitaria precedente col governo Letta. Il problema, no, per Renzi è la Libia. Il problema principale è uno Stato allo sfascio. Mare Nostrum e Tritone sono due operazioni, l'una gestita più direttamente dall'Italia, l'altra dall'Europa, che però non risolveranno mai il problema finché noi non saremo in condizione di risolvere il problema della Libia, da dove partono questi scafisti. Si può chiedere, e lo faremo di più, all'Europa di intervenire. Qui il punto politico è che da mesi, ormai da anni, la Libia è totalmente fuori controllo. La Libia, il problema è che anche quando la Libia era controllata, sebbene in maniera autoritaria, da Gheddafi, andammo lì a fare degli accordi con Gheddafi per dire: controlla le coste. Sì, è vero, arrivavano meno migranti, ma poi si è scoperto, oggi il Manifesto ce lo ricorda e Amnesty International ha fatto tanti rapporti, che è vero, Gheddafi non li mandava sulle coste, non li faceva partire questi migranti, perché molti li ricacciava nel deserto e li mandava verso morte certa da dove arrivavano. In alcuni casi li teneva in prigioni, veri e propri campi che ricordavano i lager in alcuni casi, con sfruttamento, torture per le donne, stupri. Non li vedevamo, ma ci andava bene così. Allora, di tutto questo ci frega? Ci frega qualcosa? Ce ne può fregare per qualche minuto quando leggiamo i titoli, pensiamo a 300 morti, diciamo, insomma, 300 morti, ci dispiace, poi dopo 5 minuti pensiamo ad altro? Ne vogliamo parlare oggi col sottosegretario all'interno, che torna con noi, Domenico Manzione. Buongiorno, sottosegretario, e ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Milan, a tutti i nostri. Intanto le chiedo questo, perché la polemica c'è. Lei è stato sottosegretario con Letta, quindi ha visto Mare Nostrum ed è sottosegretario ora con Renzi. Sa che Letta, l'ex presidente del Consiglio, ha twittato "Torni Mare Nostrum". Lo so che c'è anche una questione di che tipo di operazioni si mettono in atto? No, ma è indiscutibile che Tritone, come giustamente diceva lei, non sia lo stesso tipo di operazione che abbiamo avuto noi. Mare Nostrum, durante il governo Letta, lei lo ricorderà, lo ricorderanno tutti i nostri ascoltatori, nacque a seguito di una tragedia più o meno simile che si è consumata nel canale di Sicilia. Guardi, io non farei la conta purtroppo del numero dei morti, perché fosse anche una sola vita, il ragionamento si deve fare lo stesso. E quindi era una missione umanitaria. Triton è sicuramente un segnale di attenzione da parte dell'Europa, però è un altro tipo di missione, quindi bisogna che l'Europa si impegni di più. Le dico la verità, però, secondo me, discettare su se sia meglio Triton o se sia meglio Mare Nostrum in questo momento è cosa probabilmente inutile, perché anche quando c'è stato Mare Nostrum e noi abbiamo salvato qualcosa come 170.000 persone, perché questo è il numero degli sbarcati nel corso del 2014, ci sono stati comunque circa 3.000 morti. Sì. Quindi i morti c'erano anche lì, le tragedie. I morti purtroppo c'erano anche prima, le tragedie del mare c'erano anche prima. E quindi la vera chiave di volta non è il mare, la vera chiave di volta è la terra. È la Libia. Solo che guardi, non solo la Libia, perché la Libia, giustamente come lei sottolineava, è in condizioni politiche del tutto peculiari. È difficile riuscire a immaginare un accordo, ovviamente è impossibile immaginare un accordo come quello che è già stato fatto e che ha prodotto quelle assurde conseguenze, quelle enorme conseguenze di cui lei parlava. Però si può ragionare, e lo stiamo facendo con i paesi di transito. Ah, con i paesi di transito, non far partire. Eh sì, perché la Libia infatti è un paese in questo momento allo sbando. Poi ripeto, quando c'era Gheddafi non è che venivano trattati meglio, semplicemente non li vedevamo, non sapevamo nulla. Ma voglio dire, il problema c'è sempre stato. Però le chiedo, è in ipotesi l'idea al governo, allo studio, che possa ritornare Mare Nostrum rispetto un'operazione simile a quella di Mare Nostrum rispetto a Triton? No, io non, almeno che risulti a me, no. Ovviamente poi il governo può decidere quello che vuole, io non partecipo al Consiglio dei Ministri, mentre invece le posso dire che stiamo seriamente lavorando con i paesi di transito, in particolare con quelli subsahariano. Analogo ragionamento andrà fatto ovviamente con la Turchia, dove, come lei sa, ci sono circa 2 milioni di siriani, quindi si immagini che cosa potrebbe succedere se partissero o se decidessero di partire tutti insieme. La progettualità dovrebbe consistere, in questo ci vuole molta più Europa, nella possibilità, superando i vecchi accordi di Dublino che sono datati, sono stati pensati per un momento storico del tutto diverso, di far gestire da organismi internazionali delle strutture dove è possibile riconoscere là eventualmente il diritto d'asilo. Senza fare prima che partano. Guardi, che è un po' quello che ieri ha scritto in un editoriale apparso sul Libero il vice direttore Massimo De Manzoni, che è con noi, e lo saluto. Massimo, buongiorno, buongiorno. Ben trovato. Anche se oggi avete, devo dire, l'editoriale del direttore vostro, Maurizio Belpietro, è un po' un pugno nello stomaco, perché esordisce dicendo a costo di apparire brutale, senza cuore, non provo alcun senso di colpa per questa tragedia ennesima del canale di Sicilia, perché è il buonismo che è il problema di tutto ciò. Perché il buonismo, Massimo? Ma la tesi dell'editoriale è che dando l'impressione, forse anche più dell'impressione, di voler accogliere tutti coloro che si gettano in mare con delle bagnarole, li abbiamo incoraggiati a farlo. E questo è difficile da negare, voglio dire, quando c'è stato Mare Nostrum È vero che sono state salvate molte vite, ma molte altre sono perdute. Noi andavamo a prenderli sulle coste praticamente sulle coste della Libia, della Tunisia, sì, dell'Africa. Non appena, perché era una missione umanitaria, cioè il primo obiettivo di Mare Nostrum era proprio salvare e soccorrere le persone in mare, certo, ma oltre che contrastare gli scafisti, ovviamente. Ma gli scafisti non li contrastava per niente, anzi li aiutava, perché gli scafisti a quel punto lì facevano affari d'oro. Vabbè, diciamo, se li prendeva li arrestava, ecco, questo era il senso. Sì, non è stato così, abbiamo fatto Mare Nostrum per un anno e Mare Nostrum è stata una missione puramente umanitaria, tra l'altro parzialmente fallita negli obiettivi. L'anno prima erano morte in mare 600 persone, mi pare 400, mentre invece con Mare Nostrum sono morte oltre 3500. E quindi è vero che ne sono sbarcate molte di più, ma appunto è quello di cui si stava parlando. Abbiamo incoraggiato Le persone a partire. Ma cosa bisognerebbe fare? Perché voi dite sempre più inadeguati. Voi dite, per esempio, non è anche giusto pensare ai cosiddetti respingimenti, però. Cioè, che dove li mandiamo? Li mandiamo a morire da un'altra parte? Li mandiamo a morire nel deserto perché non ce ne frega nulla? Allora, il discorso va rovesciato, secondo me, perché se lo scopo del governo italiano o dell'Europa o di quello che decidiamo sia il nostro ordinamento è salvare vite umane, abbiamo praterie, perché ieri in Libia hanno decapitato 40 persone e nessuno si è commosso, perché ai confini tra gli Stati Uniti e il Messico ci sono morti tutti i giorni e nessuno di noi si commuove, perché nel deserto prima di arrivare in mare muoiono a migliaia tutti gli anni e noi non è che stiamo pensando di andare a prenderli nel deserto. Cioè, bisogna anche capire qual è la missione di un governo. La missione del nostro governo è salvare tutte le gente del mondo. Non penso che sia questo. Il problema non è questo. Allora c'è un problema di immigrazione. L'immigrazione si deve disciplinare, perché non siamo in condizione di prenderseli tutti, perché se lo fossimo, ed era il paradosso che facevo nel mio articolo di ieri, se fossimo in condizione di prenderli tutti, la soluzione sarebbe semplicissima. Questa gente paga migliaia di euro per farsi imbarcare in gommoni che poi affondano. Il biglietto aereo costa molto meno, mettiamo a loro disposizione i biglietti aerei, ma non possiamo farlo. Ma non deve essere il compito dello Stato, diciamo, questo aspetto umanitario. Però, sottosegretario Manzione, che cosa non le piace, se vuole, del discorso di Libero o di De Manzoni, a dire, cioè, c'è troppo buonismo, un atteggiamento troppo buonista? No, guardi, non è assolutamente un problema di buonismo. Intanto evitiamo di pensare che il governo italiano sia alla ricerca di persone da salvare in tutto il mondo, perché evidentemente non è questo l'obiettivo. Con l'immigrazione abbiamo a che fare tutti i giorni, quindi è un problema che ci riguarda direttamente e lo dobbiamo affrontare. La tesi che Mare Nostrum abbia fatto da pull factor è una tesi molto suggestiva, ma è largamente smentita dai dati. Questo è il dramma di questa situazione. Cioè, si diceva che quando c'era Mare Nostrum sbarcavano di più, che non si è fatto contrasto all'immigrazione illegale, che usa dei metodi, come lei ha visto, ci sono testimonianze nell'ultimo sbarco veramente raccapriccianti, di gente costretta addirittura con la violenza a salire sui gomboni della morte. Allora, la realtà non è questa. Durante l'operazione Mare Nostrum sono stati catturati un numero non paragonabile a nessuna delle altre operazioni che sono state fatte in precedenza di scafisti. Non solo, ma le dico di più, se lei va a vedere i dati dell'inizio 2014, cioè ad oggi quante persone erano sbarcate a inizio 2014 sulle nostre coste in presenza di Mare Nostrum, scoprirà che erano circa 500 di meno di quelle sbarcate oggi, che Mare Nostrum non c'è più. Quindi il dramma non è Mare Nostrum, sono le situazioni di crisi che ci sono nel Corno d'Africa e in Medio Oriente. No, certo, su questo, su questo, De Manzoni, fai una domanda al sottosegretario: che cosa secondo te il governo potrebbe mettere? Perché io mi rendo conto, non è facile gestire una situazione di migrazioni. I popoli e le persone migrano naturalmente da dove stanno peggio a dove pensano di poter stare meglio. Questo è un fenomeno, voglio dire, millenario, non è che stiamo qui a discuterlo il 12 febbraio del 2015. Però De Manzoni, cosa c'è che non va? Cosa dovrebbe fare il governo secondo te? Intanto quello che non va, cioè, sono i dati, perché vengono usati a seconda, vengono piegati a seconda del discorso che si vuole fare. Prima di Mare Nostrum in Italia erano sbarcati 42.000 persone, ci sono stati 42.000 sbarchi nel 2014 durante il Mare Nostrum. 170.000. Si sono moltiplicati. Come si fa a dire che con Mare Nostrum non c'è stato un aumento di questo? C'è stato un aumento addirittura dei morti con Mare Nostrum, per cui, tanto per cominciare, dal governo si pretenderebbe che non di volta in volta manipoli i dati per sostenere una tesi piuttosto che un'altra. E la seconda cosa che io vorrei ribadire con una certa forza, che lo scopo di un governo non è andare a salvare la gente in giro per il mondo. Ed è vero che qui abbiamo un flusso migratorio, ma se andiamo a prenderli sulle loro coste, cioè questi ultimi naufragi, c'è un inganno linguistico. Ma invece, sono in acque internazionali. Sono morti in Libia. Certo, erano in acque internazionali. Però la questione è quello che dice il sottosegretario, cioè fare accordi con gli stati non della Libia, che è uno stato spaccato in questo momento, ma subsahariani. Esatto, subsahariani. Cioè fare un accordo, andare un po' più a sud, parlare con quei governi e dire fermateli, cioè cerchiamo di gestire la situazione qui. Può essere una soluzione invece questa ragionevole, secondo te, De Manzoni? Certo che il problema va risolto lì. L'ideale sarebbe istituire dei presidi gestiti da organizzazioni internazionali in cui si separino i clandestini dai profughi che hanno diritto e poi li si smisti. Quelli che vengono accolti nei paesi dove devono andare, poi tra l'altro, perché molti di questi. Ma è chiaro, voglio andare in Europa. Ma infatti, sottosegretario, ma a che punto sono questi colloqui con i paesi? Cioè, con quali paesi i rapporti sono più avanzati come colloqui? E magari sono anche quasi in fase di ultimazione? Dunque, guardi, allora, intanto mi lasci dire che sull'ultima parte, fino ad adesso, abbiamo trovato un punto d'accordo. I dati non sono malimolati, però mi consenta, se lei guarda il trend, è assolutamente in crescita negli ultimi anni, a prescindere da Mare Nostrum. C'è un'escalation continua del numero degli sbarchi. Ci sono le guerre, le situazioni, le primavere arabe. Non c'entra niente. E in ogni caso, le ripeto, 3.800 quest'anno, 3.000 a oggi, dall'inizio dell'anno, 3.300 l'anno passato c'era Mare Nostrum, ma quest'anno Mare Nostrum non c'è, quindi evidentemente il meccanismo che spinge non è l'attività di soccorso, è qualche altra cosa. Per quanto riguarda l'altra parte della domanda, allora io mi sono appena incontrato con i tre grandi organismi internazionali che eventualmente potrebbero gestire strutture come quelle che ipotizzava anche il mio interlocutore, vale a dire con l'OIM, UNHCR e Croce Rossa Internazionale. Direi che la progettualità è assolutamente condivisa. Dobbiamo recarci in Africa, in particolare con gli stati subsahariani, sperando peraltro che la situazione politica, perché vanno a elezioni alcuni di loro ora di recente, qualcuno. Ma quali sono i paesi più sensibili? Che è il Mali? Quali sono? Esatto, Mali, Niger, Sudan, eccetera. Okay. Tutti quelli della fascia subsahariana sono quelli decisamente più sensibili, e qui si potrebbe immaginare una struttura che superi, ripeto, radicalmente il sistema d'accoglienza europeo, quindi con una distribuzione diretta all'interno dell'Europa e con un'Europa evidentemente che dovrebbe farsi carico di una più equa distribuzione, perché come lei sa ci sono 5 stati che fanno accoglienza e 23 che non la fanno. No, ma infatti questa potrebbe potrebbe essere la soluzione, certo, ideale. Uno in Mali, in Niger, in Sudan, si stabilisce lì chi ha diritto, perché scappa da una guerra, chi ha diritto allo status di rifugiato, di profugo, e dice voglio andare, o voglio, avrei il desiderio di andare in Germania, se ha il diritto da lì direttamente prende un aereo e va in Germania, se ha diritto, perché l'essere profugo o lo scappare da una guerra è un qualcosa che ovviamente dà diritto ad avere questo status, se crediamo insomma anche ai diritti umani, e tutti vi crediamo. Allora io ringrazio il sottosegretario Domenico Manzione. Se Massimo De Manzoni può stare con noi, vice direttore di Libero, mi fa molto piacere, perché tra poco ci aggiungerà anche Simone Andreotti, che è presidente della Onlus Immigrazione, che si occupa di accoglienza e integrazione degli stranieri. Ieri Libero scriveva anche di una vicenda di una parrocchia romana in cui sono di fatto spariti 1000 stranieri che avevano lì la residenza fittizia. Ne parliamo anche con gli ascoltatori. È Giorgio, Arnaldo, Riccardo, sono tra voi tra poco dopo la pubblicità. 24 mattino. Siamo riemersi dalla pubblicità dopo 7 minuti. E saluto, scusate il sospiro, ma insomma. Giorgio da Monza e Brianza, buongiorno, è lì ancora? Buongiorno, sì. Grazie, dica. Scusi. Le abbaiono in casa? Sì, mi sembra che il sottosegretario alla fine l'ha fregata Milan, perché le ha detto... Ma fregata, mica è una... cioè, che senso l'ha fregata? No, mica mi ha fregato dei soldi. Quanti anni è che sentiamo dire che faranno... ci vorrebbero dei centri di accoglienza nei paesi vicini che sono limitrofi, che sono disposti a farlo, eccetera. Ma nessuno ci dice quando, a che punto sono queste trattative. Chi si sta occupando? Lui ha detto, che hanno colloquiato con la Croce Rossa, l'ONU e l'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, e adesso devono andare in Africa a parlare con questi paesi. Che le devo fare? Che le devo dire? Voleva la data. Giustamente, il vice direttore di Libero ha centrato il problema. Noi vorremmo anche accogliere questa gente qua, ma siccome non ce la facciamo più perché siamo in troppi, il vero problema non è che se non li accogliamo muoiono, il problema è che muoiono anche là, per cui dobbiamo andare là a risolvere il problema. Certo, ma infatti andare là a risolvere il problema di... Ma io guardi, l'ultima cosa che devo fare è difendere il sottosegretario, difendere il governo, me ne frega niente, però non è facile. Cioè, lei è d'accordo che andare in Mali, perché poi vai col governo del Mali, e se il governo del Mali ti dice a me non me ne fotte niente di risolve questa cosa, lei come la pone? L'Italia, c'è l'Europa apposta per questo. Vabbè, se l'Europa va dal Mali e il governo del Mali ribadisce a me non me ne frega niente di questa cosa, e come la mettiamo? Cioè, per fare un centro di accoglienza. Ma deve farlo l'Europa, deve spendere. Ma lo deve fare sul territorio del Mali. Cioè, certo, il Mali sarà sovrano. E se dice voi qui non mettete piede, ma no, bisogna offrire infrastrutture con un bel progetto, così sono belli contenti, costruiamo qualcosa in casa loro, gratis praticamente. Però dobbiamo fare qualcosa da questo punto di vista. Allora, bene, infatti, sono trattative niente. Però tra stati, capisce che non è facile. Tutti questi alti rappresentanti per le politiche estere dell'Europa. Cosa hanno fatto prima? L'altro rappresentante per la politica d'estera dell'Europa vuole sapere la verità, Giorgio. È una poltrona che conta come il 2 di picche quando la briscola è fiori. Capito? È una poltrona. Infatti in Ucraina questa notte hanno fatto l'accordo, si spera. Sa chi hanno parlato? Putin e Poroshenko, ovviamente. Poi sa chi hanno parlato? Merkel e Hollande, l'Europa che conta. Cioè, secondo lei c'era la Mogherini, ma non per dire la Mogherini, per il ruolo, quel ruolo non conta nulla, voglio dire, è una poltrona, ma poi gli accordi si fanno fuori dall'alto rappresentante della Commissione Europea. No, De Manzoni, comunque voleva più una data, insomma, questo ascoltatore. Il sottosegretario ci ha fatto la supercazzola, Massimo. Beh, un po' sì, un po' ragione, sì. anche perché poi parliamoci chiaro, Alessandro, quando poi gli accordi con questi governi li fai, e dopo vai a bombardare i governi a buttarli giù, come è successo con Gheddafi, allora dopo diventa tutto parecchio complicato, perché è inutile che ci illudiamo che gli accordi che faremo con gli altri governi saranno tutti belli, trasparenti. Chiaro che, come diceva l'ascoltatore prima, bisognerà anche dargli qualcosa in cambio. Sì, è chiaro, si va lì, che ne so, in Mali, in Niger, bisogna in Sudan è un altro paese un po' traballante. Certo, Non potremmo certo pensare di dire, ah, ma noi prima che facciamo accordi mettete su una bella democrazia come diciamo noi, no, altrimenti questo con voi non si parla dettare la condizione. Questo bisogna dirlo, ho capito. Perché abbiamo buttato giù Gheddafi e abbiamo un califfato alle porte di casa. D'accordo, questo è stato un disastro, però non è che, ripeto, con Gheddafi gli immigrati venivano trattati prima, meglio, dalla Libia, semplicemente non vedevamo mentre li torturavano. Vogliamo dirci una cosa politicamente scorretta, ma tanto vera: noi non possiamo farci carico dei mali del mondo. Questo è certamente un approccio che si può discutere, ma è un approccio, voglio dire, l'approccio tuo, l'approccio di Libero, sul quale si può parlare. Vediamo se la pensa così anche Simone Andreotti, che saluto, è presidente di Immigrazione, una Onlus che si occupa di accoglienza e integrazione degli stranieri. Buongiorno Andreotti. Buongiorno. Lei è d'accordo sull'approccio non possiamo salvare tutto il mondo, oppure di un approccio più umanitario di accoglienza per tutti? Ma diciamo che noi non salviamo tutto il mondo già oggi. Il numero di richiedenti asilo equivalgono ogni anno agli abitanti di un quartiere come quello della Magliana, quindi non c'è un'invasione dell'Italia né numeri insostenibili, questa è la realtà dei numeri. Quindi direi che non c'è un problema di non essere in grado di fare il nostro dovere, che è quello di accogliere i richiedenti asilo che vengono appunto non per sfizio, come dire, ma per salvarsi la vita. E dato che vengono perché non hanno alternative, qualsiasi tentativo di bloccarli è inutile, perché non puoi scoraggiare una persona la cui alternativa è morire. In qualche modo arrivano. Lo so, però che possiamo fare? Cioè, dobbiamo, non so, l'idea di fare questa cosa per esempio in Niger, in Mali, in Sudan, cioè fare una preselezione, capisco che è brutale dirlo, ma per intenderci, di chi ha il diritto di poter venire e chi no, la vede una cosa positiva? Diciamo, è un'idea affascinante, io temo poco praticabile, perché un centro d'accoglienza in Libia piuttosto che in Mali si rischia di trasformarsi in una baraccopoli che, nonostante le capacità dell'UNHCR in quel contesto. Ho capito, ma allora Andreotti, cosa bisognerebbe fare? Cioè accogliere... Ma la cosa sarebbe, secondo me, molto semplice se si cambia prospettiva. Se le richieste d'asilo si potessero fare nei consolati e nelle ambasciate dei paesi di transito, e quindi fare lì un primo screening intanto per selezionare chi, se ci fossero tentativi di infiltrazione. Quindi arrivano persone a quel punto con un lascia passare in aereo, sappiamo quando arrivano, c'è tutto il controllo sulla sicurezza. Però dovranno stare, che ne so, tre mesi lì per il controllo, e quindi si ripristina l'idea di fare un centro di accoglienza lì, non so, in Mali. Se l'ambasciata controlla le impronte e fa un lascia passare per richiesta asilo, tanto la richiesta asilo va comunque valutata in Italia, questo ci permette di far arrivare delle persone, innanzitutto in modo... Tagliamo le gambe agli scafisti, sappiamo quando arrivano e c'è un controllo sulla sicurezza e risparmiamo soldi, perché la verità è che l'accoglienza costa, e siccome questi richiedenti asilo per quel viaggio di cui non possono fare a meno altrimenti muoiono, spendono cifre 10-12 mila euro, se possono arrivare con quei soldi in tasca non hanno... Ma lei sta dicendo, che ne so, l'ambasciata italiana in Mali? Cioè l'ambasciata italiana in Mali? I consolati, l'ambasciata, ma se le vede la struttura, so, di tutti i paesi, non so, della Germania, uno vuole andare profugo in Germania, va all'ambasciata della Germania in Mali e dice voglio andare in Germania, viene analizzata lì la sua domanda e... No, lascia passare per la richiesta d'asilo, d'altronde queste persone arrivano comunque, cioè diciamo che tra la partenza e l'arrivo c'è solo un motivo perché non arrivano, li lasciamo morire. Questo sicuramente nel campo profughi il problema qual è? È che chiaramente creare un campo profughi in quel contesto territoriale, pensare che si crei un campo profughi dignitoso dove la richiesta d'asilo viene ben valutata è abbastanza surreale, perché i campi profughi si fanno vicino alle guerre come primissima accoglienza e sappiamo come poi in quei contesti territoriali vengono vissuti. Allora io... La paura dell'invasione credo sia non reale, anzi probabilmente invece di trovarci i picchi d'estate che poi ci costa in emergenze d'accoglienza, farli arrivare durante tutto l'anno in aeroporto ci garantisce la sicurezza dal punto di vista del terrorismo, e ci gli garantisce scafisti, persone che sono... arrivano con dei soldi e gli scafisti spenderemo meno. Non lo so, diciamo che ognuno ha una soluzione, però il dato di fatto è che si continua purtroppo a morire in questa, e si continua a morire e soprattutto non si continua ad avere una soluzione a questo. Ma io capisco anche se Massimo De Manzoni dice non è l'obiettivo, voglio dire, di un governo, non è l'obiettivo di uno Stato pensare a dover risolvere i problemi del mondo, ma magari tutelare i propri confini, tutelare i propri concittadini. 24. Vabbè, io vorrei dare spazio a tutti, ma purtroppo qui il tempo non c'è mai, non c'è mai. Non so, Arnaldo da Roma, ma sia brevissimo per cortesia, Arnaldo. Sì, buongiorno. Senta, no, io volevo ribadire che la soluzione per me è semplicissima, questi centri di accoglienza nei paesi di partenza o di transito, sì, sotto l'egida dell'ONU, sì, che a mio avviso, se vuole, può imporre benissimo queste aree extraterritoriali nei paesi di transito. È quello, è certo, ma è quello che... È semplicissima, Milan. Io ho un terribile sospetto che questa soluzione sia troppo economica, perché... Cioè, costa troppo dispendiosa. No, no, troppo, troppo economica, al contrario, cioè invece che dispendiosa. Guardi, Arnaldo, è chiarissimo, ma ho chiesto di essere breve, se no non c'è spazio. Riccardo, buongiorno. Riccardo da Bologna. Sono qua, buongiorno. Dica. Io ho tirato un pugno nello stomaco. Sì. Bisognerebbe chiedere al soggetto medio italiano che prende 1.200 euro al mese, sì, visto che lo deve fare l'Europa, ma l'Europa è anche l'Italia e l'Italia, sì, sono i cittadini, sì, quanto è disposto a rinunciare al proprio stipendio per accogliere questa gente? Ma perché rinunciare al proprio stipendio? Noi paghiamo fior fior di soldi per finanziare, che ne so, il Parlamento europeo e l'Europa, quindi appunto, con le tasse. Lei dice perché di più? Trovino le risorse con quello che già diamo e non è che ci chiedano nuove tasse. Però se lei fa una domanda, quanto sono disposti a rinunciare gli italiani del 1.200 euro, la risposta la dico io: zero, mediamente. Ciao Italia! Siamo qui! Pronti? Abbiamo due minuti per Claudio, che saluto. Buongiorno Claudio. Buongiorno Milan. Tu ci ascolti dall'estero, da dove? Dalla provincia di Girona, in Catalogna, Spagna. Ah, in Spagna. So che tu hai una storia bellissima, perché cosa facevi in Italia? Io in Italia c'avevo un negozio di abbigliamento a Vicenza e c'avevo la mia linea di abbigliamento uomo, sì, che poi nel 2000-2001 ho iniziato a vendere in internet. Sono stato la prima azienda italiana a vendere vestiti made in Italy in internet all'estero. E perché sei andato via? Non andava bene? No, anzi, non tanto quello, era che ho iniziato a vendere soprattutto all'estero, quindi soprattutto in internet, okay, e mi ritrovavo in negozio che praticamente lavoravo quasi esclusivamente per le vendite online. Allora ho deciso di chiudere il... Hai detto, il posso andare a vivere il negozio, cioè, detto, e aprirlo qua. Ma nel senso, perché si vive meglio lì a Girona? Sì, decisamente. Ah, per quello, dice, sì, tanto vivevo lavoro su internet, vado a vivere dove si sta meglio. Esatto, portavo le due bambine che all'epoca erano più piccole, quindi potevano benissimo imparare la lingua qua e continuare gli studi qua. La mia moglie è stata bravissima, mi ha seguito e adesso siamo qua. Ma che bello! Cioè, io so che voi fate una produzione rigorosamente artigianale, veneta, e poi vendete tutto a linee di abbigliamento. Che continuo, quindi la produzione continua a essere veneta, artigianale, viene spedita, lo stock viene spedito qua. Abbiamo affittato un casolare dove c'ho la casa, dove c'ho lo showroom, l'ufficio, eccetera. E da qua poi ogni giorno passa l'UPS e raccoglie. Prende gli ordini e via. Ma Claudio, ma è fantastico, tu ci ascolti ovviamente in streaming, immagino, sei collegato con Radio 24. Dici una roba in catalano, un saluto. Buon dia a Totom, buongiorno a tutti quanti. Beh, insomma, è abbastanza capibile e ti ringraziamo, un grosso abbraccio, con te ci riaggiorniamo, con tutti voi a domattina. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.